la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, 16:31 primi, 16 secondi qui in diretta da Radio 24. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per chiedere argomenti, ospiti, trasmissioni, critiche, osservazioni, e io rispondo. E andiamo subito al tema della giornata. No, non commentiamo, farò solo un pensierino di un minuto, i dati dell'Istat sull'occupazione, sulla crescita del PIL, sul debito e deficit pubblico che sono stati diramati stamattina, ma invece solo una considerazione di un minuto su questo, ma vado al tema per sollecitarvi a intervenire all'800 24 00 24 per la telefonata come sempre e al 349-238-6666 per gli sms. Questa è una puntata dedicata a un tema di cui si parla poco, ma che da quasi due anni, un anno e mezzo in realtà, è una delle vertenze e delle vicende di lavoro più intricate e più conflittuali aperte nel nostro paese. Riguarda i bancari, non i banchieri, i dipendenti delle banche, non chi le guida. Perché? Perché il contratto è stato annunciato già dal 2013 dall'ABI, l'associazione che riunisce tutte le, gli istituti di credito italiano, come disdettato. La disdetta poi è diventata operativa dal 31 dicembre del 2014. In un anno il confronto tra le banche e i sindacati di settore è stato molto duro, cioè non c'erano proprio i termini per la diversità e la divergenza delle posizioni al tavolo. E ci si è dati poi all'inizio dell'anno 90 giorni fino alla fine di marzo, che è iniziato proprio adesso, per verificare se esiste la possibilità di arrivare a una intesa. Le posizioni restano molto distanti e di fatto per la prima volta dopo 12 anni in questi mesi sono tornati gli scioperi nel settore. Da 12 anni che non c'erano gli scioperi, c'è stato uno sciopero il 30 di gennaio nazionale di settore con un'altissima adesione, a dire la verità. Oggi c'è un altro sciopero che riguarda i dipendenti delle banche di credito cooperativo, e anche questo, a giudicare da quello che battevano le agenzie in mattinata, ha avuto un'adesione fortissima. Quindi sia che siate bancari, sia che abbiate invece vostre opinioni in merito, chiamate all'800 24 00 24 e diteci come la pensate. Io, prima di presentarvi l'ospite, prima di riepilogarvi un po' i dati di questo confronto, ripeto, tra due posizioni, quelle delle banche da una parte e quelle dei loro dipendenti dall'altra, che sono molto distanti oggettivamente, solo qualche considerazione, perché domani avrete i giornali con titoli inneggianti ai dati Istat di questa mattina, la ripresa. Mi limito a dire magari fosse così, come dal mio punto di vista, magari fosse così, nel senso che il dato di mensile della disoccupazione che scende a 12,6% resta comunque molto alto. Sull'ultimo trimestre del 2014 l'incremento degli occupati va bilanciato, leggetelo bene, andate sul sito dell'Istat e leggete il comunicato, perché l'aumento dei lavoratori a tempo indeterminato, tempo pieno voglio dire, è quello minore, cioè solo più 0,2% nel trimestre, mentre c'è, quindi vecchia tendenza, l'aumento di quelli a tempo parziale, più 3,2%, quindi è l'apporto vero dell'aumento dei posti di lavoro. E leggetevi bene il comunicato dell'Istat, 2 su 3 di questi nuovi occupati a tempo parziale sono involontari, cioè è gente che lavora a tempo ma non vorrebbe lavorare a tempo. Ecco, questi sono i dati, per così dire, quindi sono dati che secondo me non consentono molto di dire eccoci la svolta. Detto questo, speriamo che la cosa si rafforzi, come devo dirvi. Altro dato, chiudiamo con il deficit 2014 al 3%, solo per 1,7 miliardi, cioè un'inezia su 800 miliardi di spesa pubblica, non oltrepassiamo la soglia di infrazione europea, che giustamente vale meno oggi, non è quella l'importanza. Detto questo, con questo bilancio definitivo del deficit 2014, il 2015 ha un effetto di trascinamento per cui i conti del governo sono sempre meno credibili, per cui nel 2015 noi con l'effetto di trascinamento siamo già intorno a 3,7-3,8 se non ci sono nuovi interventi correttivi, se non li facciamo fino alla legge di stabilità sarà troppo tardi. Non è sicuramente questa la grande gravità dell'economia italiana, visto che è quella del recupero di perdita di PIL e di reddito e di occupati. Detto questo, è un altro dato sul quale riflettere invece che tirare su bandiere di grandi vittorie. Lo dico come contributo, per così dire, statistico, poi ognuno è ovviamente libero invece di festeggiare o meno. Io credo che da festeggiare ci sia ancora poco e speriamo invece che la ripresa si rafforzi davvero e si manifesti davvero non con 0, perché con gli 0, ripeto, 9 punti di PIL e 3 milioni e mezzo di disoccupati, hai voglia. Cioè i 130.000 occupati in più del 2014, se ci pensate, su 3 milioni e mezzo vuol dire che noi abbiamo più di 20 anni di fronte per risolvere il problema. Mi sembra un numero di anni un po' eccessivo. Andiamo invece alla questione di cui parliamo oggi, di fronte a questi scioperi primi dopo 12 anni nel settore delle banche. E il problema è che l'ABI, da una parte, sottolineando il problema della grande torsione patrimoniale per i coefficienti patrimoniali chiesti dagli accordi di Basilea e della vigilanza bancaria da una parte, l'enorme massa di crediti deteriorati, 330 miliardi tra incagli e sofferenze, la necessità di alzare la produttività molto indietro rispetto a quella di anni fa. Di fronte a tutto questo, insomma, l'ABI iniziò a dire: guardate, nel nuovo contratto non ce n'è praticamente per nessuno. Caro sindacato, facciamo contratti aziendali perché c'è bisogno di ristrutturare molto tra piante organiche e recupero di produttività, ma noi vi possiamo dare un nuovo contratto poco più di 20 euro. Su questo i sindacati chiesero di più fin dall'inizio dell'anno scorso, a dire la verità, cioè chiesero 100 euro di più. Ecco. E su questo per tutto l'anno scorso il confronto è rimasto durissimo. Durissimo perché oltre a questa differenza sul recupero, per così dire, di un'inflazione che oggi, lo sapete, non c'è, siamo in deflazione, anche questo è un argomento che le banche usano, si sono aggiunti altri elementi di contrasto. C'è un elemento di contrasto che riguarda la cosiddetta area contrattuale. Cosa vuol dire? Vuol dire la possibilità o meno di definire tramite procedure nazionali, non azienda per azienda, tutti quelli che possono essere esternalizzati, e ovviamente è una procedura che le banche stanno seguendo, quello di mandare fuori unità di lavoro e dipendenti. Tenete conto che stiamo parlando di un sistema bancario che oggi occupa 309.000 persone, ma se sommate negli ultimi anni le uscite e ci aggiungete quelle degli ultimi accordi bancari nel 2014, siamo con 68.000 unità in meno che lavorano nel settore, quindi sono numeri importanti. È vero che le banche avevano prodotto troppe agenzie e troppe dipendenti per come avevano operato il loro consolidamento, ma sono tutte cifre che sono sul tavolo. Siamo arrivati dopo lo sciopero del 30 gennaio oggi a questo sciopero nelle banche di credito cooperative, e mi sembra giusto ricordarvi che uno dei punti riguarda anche l'andamento divergente delle retribuzioni tra i dipendenti delle banche e invece i capi delle banche, i manager delle banche, perché se la retribuzione media degli impiegati, ma mettendo dentro anche i quadri e del settore bancario, è di 46.649 euro, e significa comunque 810 euro in meno rispetto all'inizio del decennio in termini reali, beh, se fate invece la somma e poi la media dei primi 5 amministratori delegati dei grandi gruppi bancari, e beh, nel 2000 beccavano 3,1 milioni di euro in media e nel 2014 hanno preso 3,7 milioni di euro, quindi hanno portato a casa in media 600.000 euro in più a cranio nel 2014, malgrado tutte le crisi degli istituti bancari e le cifre che ho ricordato prima. Allora, per capire le ragioni dei bancari da una parte, e anche per capire se avremo questo contratto oppure se andremo a una a un scioperi ancora più duri di qui a poche settimane, perché ripeto, entro il 31 marzo bisogna chiudere, abbiamo invitato il segretario di una delle formazioni sindacali più rappresentative, trasversali rispetto alla triplice, perché è un sindacato autonomo, si chiama FABI, la Federazione Autonoma dei Bancari Italiani, ed è con noi il segretario, si chiama Luca Bertinotti, e io lo ringrazio, buon pomeriggio. Io ringrazio lei, dottor Giannino. La prima domanda è di colore, lo so, gliela devo fare, sì. Ma con questo cognome non si imbarazza mai a essere confuso, no? Siamo tutti figli di Dio, quindi le parentele a maglie larghe possono essere ricomprese. Sì, figuri. E le parla uno che come lei è coevo, e quindi è però nato il primo maggio, quindi era scritto un po' nelle storie. Ah, era pure nato il primo maggio, vabbè, allora è proprio... Allora, innanzitutto, c'è qualche spiraglio? Primo, secondo, i numeri che ho ricordato sono più o meno corretti, oppure dal suo punto di vista c'è qualche cosa che non va? Le banche hanno cambiato atteggiamento e arriverete a un contratto, ma su che base? Perché tra 20 e 120 c'è una bella differenza. Assolutamente sì, le banche devono necessariamente rifare di conto, perché è il recupero del potere d'acquisto, quello che è sul tappeto, non certo cifre astruse o almanaccate, l'inflazione, niente più che l'inflazione. Tenendo presente che ovviamente c'è una dinamica anche di deflazione di questo paese, quindi abbiamo fatto di conto noi per primi, tenendo presente che le proiezioni ovviamente non brillano di punte di inflazione come lei ben sa, certo. Quindi un dato assolutamente piatto. All'interno di questo dato però ci vogliono tra virgolette inserire elementi di zavorra incredibili che fanno parte di altre dinamiche, quindi nel pallottoliere dell'ABI ci stanno dei conteggi che sono estranei al recupero del potere d'acquisto. Perché l'ABI poi a un certo punto ha anche detto, però se vi diamo questo blocchiamo comunque gli aumenti automatici e gli aumenti degli accantonamenti a TFR. Sì, assolutamente sì, se sul piatto della bilancia c'è qualche euro, dall'altra ci deve essere una compensazione di qualche euro in più, e non si va da nessuna parte. Se sul piatto della bilancia dell'offerta economica corrisponde un'azione diretta e più che proporzionata da parte dell'ABI in senso di impoverimento, mi sembra che stiamo giocando un po' a mosca cieca, a nascondino, beva lei, insomma. E quindi? E quindi la risposta molto positiva, il mandato che i lavoratori ci hanno assegnato e riconfermato il 30 gennaio, e era il secondo sciopero dopo quello del 31 ottobre dell'anno scorso, ci danno una forte carica e una motivazione. Il dialogo è stato riaperto, sicuramente un primo passo è bene sedersi al tavolo, perché è al tavolo che poi si stipulano gli accordi collettivi. L'ABI deve necessariamente capire che un contratto collettivo di lavoro in questo paese fondato sul diritto deve necessariamente essere perseguito, e le dinamiche sui costi e la parte economica ovviamente non devono essere l'elemento della pistola fumante sul tavolo, verranno sviluppati successivamente ad un paio di incontri legittimi su altre materie altrettanto importanti, come lei citava, area contrattuale, quindi il tetto della casa comune di tutti i lavoratori, se si riconoscono o no nell'area contrattuale, oppure la categoria perde il valore identitario e si chiama categoria non dei bancari ma dei bancali o dei portuali. Poi ci sono gli aspetti inquadramentali che fanno, voglio dire, molto leva e molto premio rispetto ai grandi gruppi, qual è il carattere profilo della professionalità o del pagare o del riconoscere la professionalità dei lavoratori da qua ai prossimi 3 anni, perché qualcuno ci ricorda che fra 20 anni chi nasce adesso, il nativo digitale, non vedrà più lo sportello fisico, ma noi dobbiamo occuparci dei prossimi 20 mesi di questo paese, poi fra 20 anni avremo senz'altro tutto un altro giudizio della storia. Siamo alla doxa e quindi siamo alla cronaca. Senta, nel frattempo i gruppi in crisi, non pochi, sì, perché sì. Tra banche commissariate, gruppi che devono rapidissimamente, pensiamo solo agli aumenti di capitale del 2014 che hanno superato il punto di PIL, ma intanto pesanti accordi aziendali nel 2014 sono stati presi, e per esempio uno dei gruppi che ha fatto un nuovo accordo, anzi un nuovo piano industriale nel 2014, Unicredit, che non è proprio una banchetta, visto che stiamo parlando della più internazionalizzata, per certi versi la prima e per altri versi la seconda, a seconda dei criteri che indichiamo, però Unicredit ha anche detto, se qui non si recupera la ragionevolezza, sapete che c'è, può essere che noi usciamo dall'ABI. Poi Ghizzoni l'ha smentito, però i giornali l'hanno scritto. Che cos'è? Un bis di un caso Fiat che esce da Confindustria, no, e non firma il contratto? Dottor Giannino, lei è attentissimo, voglio dire, ai dati salienti di cronaca. Già ai tempi di Alessandro Profumo, Unicredito, ci fu un'iscrizione alla Confindustria di Roma, seguita anche da una banca di credito cooperativo di Roma, la Confindustria. Quindi fu già un tentativo temporibus illis, 6 anni fa, quando ancora Unicredito governava Unicredito, il Profumo governava Unicredito, di fare questo, diciamo, scarto laterale della contrattazione. Sono provocazioni che hanno il senso così di dare un certo impulso e una certa intelligenza alla trattativa. Per farvi piegare, però io adesso le faccio un'osservazione e poi mi dà la risposta dopo i 60 secondi di informazione stradale. In realtà, il chiedere che più materie vadano nella contrattazione aziendale, cioè banca per banca, perché poi è vero che le banche hanno tra loro problemi abbastanza profondamente diversi a seconda del modello organizzativo che hanno avuto, di quanta tecnologia abbiano, di quanto eccesso di agenzie abbiano e così via, visto che i modelli tra loro sono stati molto diversi. Secondo me un fondamento ce l'ha. Come si fa a coniugare un maggior peso della contrattazione aziendale rispetto a un contratto nazionale? Non è meglio restringerlo solo alle parti giuridiche, che devono valere per tutti i diritti, e a, come è giusto, alla parte salariale che deve tutelare il potere d'acquisto? Aggiungo, terza questione, secondo me nel settore bancario ci vorrebbe anche un criterio di proporzione tra i manager e i dipendenti, devo dirvi la verità, questo nel settore bancario della finanza vale molto di più che nel settore dell'impresa manifatturiera e altrove. Ma come si fanno a equilibrare l'esigenza di contratti aziendali più pesanti, che vadano nel merito della produttività e di come si fa a ristrutturare nel rispetto, nella riqualificazione, nella riformazione anche dei dipendenti? Perché è vero che c'è un problema di servizi digitali rispetto al front office e al back office tradizionale nelle agenzie, con il fatto che poi di un contratto nazionale che non venga rottamato, per così dire, che è un po' il problema di tutte le categorie, ma nel vostro, che è un problema di una categoria, di un settore in fortissima crisi, diventa a questo punto più forte. La risposta dopo l'informazione sulle strade. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornata in diretta alle 16.49. Stiamo parlando di questo sciopero che c'è stato oggi dei bancari e delle banche cooperative. Però ci sono stati due scioperi a gennaio e ottobre che, per la prima volta dopo 12 anni, hanno tentato di richiamare l'attenzione di tutti sul fatto che c'è un contratto disdettato dopo un anno di inutili confronti tra le banche e i sindacati dei loro dipendenti. Adesso, le ultime settimane prima di verificare se si va a un'intesa oppure no, è una novità. Dico a chi manda sms: ma come, i bancari 16 mensilità non ce l'hanno più da tanto, a dirvi la verità. Vi ho riepilogato quanti sono andati fuori dal posto di lavoro rispetto ai 309.000 di oggi, stiamo parlando di 68-67.000 persone da che è iniziata la crisi, per essere chiari, quindi stiamo parlando di un settore con sangue che scorre, a dire la verità, dei dipendenti ovviamente, mentre invece chi guida le banche, insomma, i soldi ne piglia parecchio di più. E quindi come si fa a fare un contratto nazionale che regga ancora e un contratto aziendale però più forte, Bertinotti? Allora, intanto ritorno sul dato: le 16 mensilità sono sparite da tempo, sono 13 dal 2000, e quindi voglio dire, non ci sono una casta di privilegi per quanto riguarda i bancari. Poi i bancari hanno due contratti, quello dell'ABI di cui narravamo prima e quello del credito di cooperazione o credito cooperativo, di cui all'oggetto oggi la giornata sciopero, sì, di sciopero nazionale. Una categoria tra l'altro con necessarie tutele in più, dove tra l'altro, voglio dire, l'associazione di categoria Federcasse è stata in udienza al Soglio Pensificio due giorni fa, grande valore della persona, grande centralità della persona. Poi dopodiché il credito di cooperazione diventa un po' credito di corporazione nei confronti dei propri lavoratori, collaboratori, dipendenti, perché si scordano di praticare questo valore cristiano, umano e quant'altro nei confronti delle motivazioni. Noi abbiamo bisogno di un modello di banca diverso, abbiamo proposto in ABI, lo proponiamo nel credito cooperativo, ci vuole per affrontare e governare la complessità delle dinamiche che lei rappresentava del paese, della crisi di sistema, un modello di banca diverso. L'abbiamo proposto, siamo alla protesta oggi, è vero, ma ieri e domani torneremo alla proposta. Un modello di banca con nuovi mestieri, con nuovi rilievi e profili di lavoro, sia front che back office, perché il lavoro continua a esserci, è diverso, è cambiato, quindi ci vuole una leva generazionale di ricambio, ci vuole una leva professionale, ma ci vuole anche una leva, tra virgolette, in dignità, dove il lavoro, che è la parte debole del negozio giuridico, venga però portato, tra virgolette, all'attenzione del che cosa vogliamo fare in queste banche: svuotarle, renderle H24 automatizzate, se la risposta è quella di far lavorare il bancomat e il call center, il Dio me ne scampi di questo tasso di clientela con un tasso anagrafico del paese che visibilmente va verso gli anta. Cioè lei dice insomma il bancario serve, bisogna riqualificarlo, ma serve. La banda larga non arriva dappertutto. No, non c'è dubbio. Allora sentiamo rapidamente alcuni dei nostri ascoltatori, perché sono tanti, sì. Così vediamo le loro osservazioni come le commenta. Cominciamo con Roberto da Bologna, prego Roberto. Sì, buonasera a tutti. La mia riflessione è questa: c'è stato oggi uno sciopero con alta adesione al credito cooperativo. Io credo che si coniughi più che l'esistenza del contratto, l'esistenza dello schema di credito cooperativo. C'è bisogno di cambiarlo, c'è bisogno di semplificarlo e bisogna che queste sovrapposizioni di tanti enti che ci sono nel nostro sistema di credito cooperativo venga tolto, venga dato più spazio alla razionalità, a un recupero dell'efficienza. Dopodiché non è mai un problema la gestione del personale, sia in accompagnamento, mi avviso, in esuberi, ma anche come riqualificazione, come diceva il segretario Bertinotti. Speriamo, perché avrà visto che insomma la settimana scorsa Banca Italia ha affondato un coltello di quelli molto taglienti sul sistema delle BCC. Non c'è solo la riforma delle 10 grandi banche popolari del governo, che tra l'altro è bersagliata di centinaia di emendamenti depositati proprio la settimana scorsa, quindi vedremo che cosa in Parlamento ne sopravviverà. Emilio da Taranto, prego Emilio. Sì, io volevo sottolineare l'arroganza dell'ABI e dei banchieri, e volevo aggiungere ai dati che lei ha citato, dottor Giannino, uno che adesso cito a memoria, ma avevo letto poco prima del precedente rinnovo contrattuale dei bancari, quello che adesso viene vituperato dall'ABI, che vuole addirittura stracciare il contratto ed eliminarlo completamente, che mi sembra che fosse l'anno 2007, solo tre manager avevano preso 61 milioni di euro tra retribuzione ordinaria e straordinaria per il raggiungimento dei budget, e parliamo di Profumo, Geronzi e Passera. 61 milioni di euro è il costo di 300, del rinnovo contrattuale a regime dell'ultimo contratto che è scaduto e che adesso è stato disdettato dai banchieri. Quindi di cosa stiamo parlando? No, ma io stesso ho detto che c'è una sproporzione, c'è una leva eccessiva. Io che non sono se non un mercatista, però dico che in questo settore effettivamente c'è un problema. Ecco, è un problema. Io non sono per fissarlo come un leggi, mai, però che un problema ci sia. Che poi ci siano tanti banchieri cattolici che fanno bei convegni sulla morale etica cristiana, e poi mi sono sempre chiesto quanto di questa roba ci sia nel modello operativo, nelle prassi delle loro banche, questo come sfonda una porta aperta. Tommaso da Milano, prego Tommaso. Ciao Oscar, ma io guarda, ti volevo dire una cosa, due cose anzi. Uno, che lavorando in banca e lavorando proprio a contatto col pubblico, le banche non potranno mai eliminare le persone, perché comunque i budget vengono portati a casa dalle persone, non dalle macchine, dalle filiali, dalle persone fisiche. Certo. Inoltre, che diciamo il giochino di tirare la corda in questo momento di crisi, quando comunque è chiaro che la parte del coltello, la parte del manico ce l'hanno le banche, non ce l'avete voi. Comunque insomma, noi continueremo a dare informazioni su questo. Io ringrazio Bertinotti, ci torneremo sopra entro fine mese quando si capirà le cose come vanno. Intanto continuate con Radio 24, appuntamento come a domani.